What can I do with you, Mr. Strozzi? All right, let's talk about it. Come out of my throne. Merda, ne scrivo 16, uomo, se non ci credi che ho troppi concetti metrici, credi c'è poi stravedici, è grasso è meglio dei medici, il mio diploma attestato della Demici, rapper vero cazzo dici, scici, sono la stessa forza di un meteorite, sono un'altra gromma grossa, cancello quello che dite, sono come una miccia che brucia la dinamite, sono suono del mio suono e sul mio suono sono leader, e poi non ho mai scritto un represent come te, perché se provo a farne uno scrivo come voi in tre, man, poi non c'è nulla in cui potete starmi dietro, tranne con i soldi in mano. Dammi che sto flow concreto, io non faccio il figo come fibra, faccio come il mondo grida, una matita, la saliva, l'istinto suicida. Non voglio il cazzo come un film di Miramax, dignità sui quattro quarti, ritagli l'identità. Effetto MC, stronzi grosso come un gancio di Mike Tyson, cattivo come in Street Fighter contro Blanca tipo Bison. Testa che mi vola come un elicatto Raimon. Tu stai sotto con Nobita e sei un bambino di titanio. Squaglio in meritaglio su fogli d'ottrame giallo. Non ballo ma sputo inchiostro su suoni di cristallo e gallo. Non puoi venire a fare il grosso col mio team. Overkill o SV se vuoi ridurti così. Sono lividi, merda, deciditi se vuoi distinguerti tra pappi di metallo. Lo sbando su strade simili, similitudini, concetti futili. Se dubiti di me, dubiti di tutti i pubblici che credono nel rap. E passa da queste parti, trovi suoni aperti in quarti. Scrivo scarti, ma i più tanti sono buoni per smontarti. E adesso chiudo, ritappo la penna, judo. Fat MC, underground, sono Jeff Flow con lo scudo. Come out of my throne. I am the truth.